Vi ho anticipato, in scena si apre con la quinta edizione di In mezzo scorre il fiume, già iniziato, ma noi, come ben sapete, seguiamo questa rassegna anche per particolarità territoriale. Le particolarità territoriali sono in estensione soprattutto per quanto riguarda la serata di questa sera. Per saperne di più siamo in diretta telefonica con Luisa Cottifoglia, alla quale do il buongiorno. Buongiorno Luisa. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti, ciao. Oramai sei co-conduttrice del Breakfast Club, sì. Quindi sei un'artista, sei anche redattrice, si può dire, per la rubrica quasi, in scena. Per adesso per la rubrica in scena. Allora, particolarità territoriali, ricordando che in mezzo scorre il fiume sull'Appennino tosco-romagnolo, in comuni che hanno un aspetto e delle particolarità e delle singolarità veramente molto intense per la tradizione e per la possibilità di incontro con altre tradizioni. Intanto facciamo un piccolissimo passo indietro. Ieri mi pare che eri impegnata, hai detto magari farò un po' fatica ad alzarmi puntuale alle 8, per cui com'è andata, come stai? È stato bellissimo, siamo andati a Russi, abbiamo fatto il mio spettacolo Rumi con Gabriele Bombardini e le video installazioni di Andrea Bernabini, che erano sulla facciata del Palazzo San Giacomo, quindi una cosa storica, delle videoproduzioni bellissime, insomma, per cui è andato molto molto bene. Sì, sei soddisfatta? Il caldo, ma quello, sì, ma il caldo quello ce lo mettiamo. È la sua stagione, sempre. Certo. Esatto. Anzi, diciamo che uscire un attimo dalla grande città dà la possibilità anche di avere un pochettino di refrigerio. In questo caso siamo invece per la serata odierna a Sassoleone, quindi si rientra un pochettino più vicini alla città. E Appennini Appallachi sono le due desinenze simili per un incontro in musica che troverà anche altri motivi di dialogo con un pubblico curioso. Venerdì 19 luglio, Appennini Appallachi. Allora, i Monti Appallachi hanno una grandissima tradizione musicale, hanno sonorità che dialogano con Inghilterra, Scozia, Irlanda, perché i primi migranti che arrivano negli Stati Uniti d'America ovviamente si avvicinano alle coste occidentali. Nell'entroterra delle coste occidentali vi sono questi monti già scoperti da esploratori cubani, pensa, nel 1500, dove trovano gli indiani Appallachi, e da questo motivo il nome di questa catena montuosa. La tradizione andrà in intersezione molto importante con tutto ciò, anche con strumenti molto particolari di cui parleremo. Dopo questa mia omelia geografica culturale ci puoi dire qualcosa di più, diciamo, concreto, Luisa? Un'omelia, bellissimo. Allora, dunque, potremo ascoltare presso l'Agriturismo Manuela alle 19, prima potremo fare una passeggiata, se la gente non ha paura del caldo, avremo i nostri cavalieri che ci portano, perché lì è un agriturismo con cavalli, mucche, e ci sono proprio tante persone che vanno a cavallo. Quindi se faremo una piccola passeggiata nei dintorni, la faremo in compagnia appunto di questi cavalieri. E quindi in questa ambientazione country avremo alle 19 il concerto dei Moonshine Brothers, che sono tre fratelli che in realtà vengono dai nostri Appennini bolognesi, da San Benedetto Val di Sambro. I fratelli Stefanini, che hanno appunto fondato questo trio, ma quando erano veramente molto giovani, Moonshine Brothers, appunto appassionati di musica americana. Poi uno di loro, Raffaello, detto Raffè, negli anni 80 migra negli Stati Uniti per approfondire questa cosa e diventa uno degli esponenti maggiori del fiddle, del violino sì. Tipico americano, del banjo, della voce. Tant'è vero che adesso anche con la figlia sta un po' facendo tantissimi concerti in America perché è molto conosciuto. L'associazione Ebbene Venga Maggio di Monghidoro ha detto ma perché non farli riunire e da questa reunion fare un tour proprio di questa musica che si sposa alla perfezione. Sono due tradizioni, la tradizione appenninica e la tradizione appunto appalachiana. E da qui nasce appunto questo progetto che si chiama, come hai detto tu, Appennini Appalachi, un'unica radice per due grandi tradizioni popolari con i Moonshine Brothers. Quindi è una cosa veramente, è un concerto, diciamo, per semplificare, country in un'ambientazione country degli Appennini. Però de no altri, in casa nostra, si può dire. Esatto, esatto. Quindi questo alle 19, quindi prima di cena. E poi ci sarà la cena con... l'agriturismo Manuela, cioè un personaggio che è Maria Pia, che cucina da anni benissimo, fa la pasta fatta a mano, eccetera. Per cui degli Appennini noi sorbiremo anche questa bellissima tradizione culinaria. Però è molto importante prenotare, perché chiaramente lei è già in fermento da giorni perché sta preparando tutto quanto, e allora per non perdersi questa occasione, perché c'è già moltissima gente che ha prenotato, bisogna cercarsi insomma l'agriturismo Manuela di Sassoleone e telefonare per dire ci sono anch'io a cena, però venite alle 19 perché è un orario insomma prima di cena, un po' all'americana, un po' certo. Alla nord europea. Poi a me piace mangiare presto, per cui per me si cena alle 19, si pranza a mezzogiorno, quindi insomma direi no, che è un'attinenza. È il concerto che c'è alle 19, il concerto è prima di cena. Alle 20:30 c'è la cena, scusa, esatto, scusa. Alle 20:30, cioè, è il mio appetito proverbiale che mi ha portato a travisare, scusate. Ma tu sei magrissimo. Una volta sì, alle 20:30 cena l'agriturismo, ribadisco alle 20:30, l'incontro inizia alle ore 17 con partenza e escursione fra cavalli, pascoli e fiume, quindi molto suggestivo. Sì, vediamo se la gente ha voglia con il caldo, altrimenti andiamo veramente a scoprire i cavalli perché ci sarà qualcuno che ci spiega un po' tutto, la vita, l'etologia dei cavalli e questo, quindi vediamo. Se qualcuno vuole mettere i piedi nel fiume, andiamo giù nel fiume insieme ai cavalli, appunto, e mettiamo bello. Anche i piedi nel fiume. Beh, un bel incontro, bel motivo di incontro. Sì, sì. Tra l'altro, dai Monti Appalachi, le particolarità, ok, il fiddle, il violino, ma alcuni strumenti, io poi la ricerca e la passione per la musica da sempre, quindi hanno anche la possibilità di cambiare le percussioni, pensa, utilizzavano come dei ditali per picchiare, ditali da cucire, per picchiettare contro l'asse per il bucato, avevano questi strumenti immediati, hai capito? Quindi le percussioni venivano sostituite in questo modo, con questo fingertips veniva chiamato, cioè picchiettare con le dita, strumenti che venivano così trasformati da oggetti di uso quotidiano, per cui la possibilità di conoscere queste sonorità con ore 19, ribadisco dopo la mia gaffe enogastronomica, con i Moonshine Brothers. Ho trovato un loro brano, lo possiamo mettere, Luisa? Certo, bellissimo. Così diamo un po' uno stacco musicale. Thank you. come ben sapete, tante e tanti hanno dato un contributo fondamentale per la nascita della musica di improvvisazione jazz. Per quanto riguarda queste sonorità, la presenza dell'Irlanda, la presenza dei migranti dall'Inghilterra, dalla Scozia, hanno portato in effetti una sorta di improvvisazione, poi con l'ispirazione che abbiamo appena ascoltato, che si conclude giustamente con un applauso alla rubrica in scena. Poi ovviamente l'ispirazione arriva anche dal klezmer, l'ispirazione arriva come musica afroamericana e non solo, grandi migranti italiani, Lenny Tristano, per dire, origine italiana. Ecco, anche un'altra omelia, non riesco a farne a meno, Luisa, per quanto riguarda la musica. Eh beh, questi sono i fratelli Stefanini, da cui appunto Raffaè Stefanini è diventato famoso, no, in America. Ma anche, come dire, gli altri due fratelli hanno sempre coltivato la musica, chi costruendo strumenti, chi suonando, e questa è proprio una reunion bellissima. Io sono molto emozionata per stasera, perché è veramente un appuntamento, un tipo di appuntamento che non avevamo mai fatto, che ci parla un po' di... è storico, no? Come, sì, è culturalmente molto interessante, oltre che di aggregazione e di gusto musicale, per cui insomma ribadiamo che venerdì 19 luglio, questa sera a Sassoleone, dalle ore 17, per chi vuole partenza escursione fra cavalli, pascoli e piume, ore 19 concerto dei Moonshine Brothers, alle 20:30 la cena all'agriturismo. Luisa bisogna prenotare. E bisogna prenotare. Esatto. Luisa Cottifoglini è la direttrice artistica, che può arrivare a Radio Città Fujiko fisicamente o telefonicamente ogni volta che vuole, dopo che ha detto che sono magrissimo. Brava, grazie. Stavi dicendo beh. Esatto. Allora, bando a queste celie, non finisce qui, perché procediamo anche per sabato 20 luglio. Siamo in una frazione di Imola che è a San Prospero. Non voglio avanzare, di solito le mie conclusioni sono sempre molto azzardate. Sarà un incontro per quanto riguarda invece in questo caso la danza e il ballo. Ci puoi dire qualcosa di più? Ecco, qui andiamo proprio invece nelle danze e nelle musiche nostre, proprio del territorio, della Valle del Santerno e delle valli, insomma, attorno a Imola. Sono musiche che verranno portate dai L'Homme de Grain, che in romagnolo significa i lumi del grano, sì, le lucciole in pratica. Un collettivo musicale che ha un po' l'obiettivo di coltivare la tradizione musicale antica emiliano-romagnola, con attenzione alle danze staccate, quindi le danze che venivano fatte prima del liscio e venivano ballate dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, prima dell'avvento del liscio. E quindi sarà molto bello, perché alle 18 ci sarà questo piccolo stage gratuito per chi voglia ballare poi la sera, e Giancarlo Battilani, che è un ricercatore per le danze e anche per questi tipi di musica, condurrà appunto questa piccola lezione per insegnarci qualche passo di danza, perché queste danze non si fanno solo in coppia, ma si fanno proprio in gruppo, in quartetto. E da questo staccati la definizione? Sì, staccati perché? Perché esatto, perché non si balla solo in coppia, per distinguerlo dal liscio. Lo staccato e il liscio, no? Certo. Erano queste danze che erano molto comunitarie, sulle aie, dappertutto si facevano queste danze accompagnate o dagli strumenti quando c'erano, oppure addirittura dalle voci, quindi dai brani cantati, naturalmente ritmici, per far sì che la gente potesse metterci sopra i passi di danza. Quest'altro appuntamento secondo me è molto importante, perché è proprio nel comune di Imola, quindi in questo piccolo borgo che c'è, diciamo subito fuori Imola, San Prospero. È la prima volta che il festival arriva in questo borgo ed è stato preparato proprio nei mesi dal centro sociale che c'è in questo borgo e insieme a Roberta Faben. Hanno preparato proprio una festa come una volta, una festa campestre, dove ci sarà un mercatino con i vari produttori locali. e con i vari artigiani, e ci sarà appunto questo, questo gruppo che alle 18 ci insegnerà le danze, diciamo. Poi alle 21 si darà fiato alle trombe e si inizieranno le danze insieme ai L'Homme de Grain, che sono Giancarlo Battilani, che oltre a dirigere le danze suona il violino, la cornamusa, canta. Poi Massimo Oppi alla chitarra, Maria Del Rico alla fisarmonica e Jacopo Alessandri all'ocarina. Quindi strumenti tradizionali, ma nello stesso tempo anche con uno sguardo di originalità. Tra l'altro ho visto cornamusa, ocarina, insomma sempre una ricerca nel suono che è d'aggregazione, ma anche culturalmente molto curioso. Sì, tra l'altro storicamente è interessante, noi faremo tutto quanto nella piazzetta centrale, dove c'è il centro sociale, davanti, diciamo, come posso dire, all'AIA, no? Del sì. centro sociale. Che in realtà è uno dei primi centri di aggregazione, dei primi circoli case del popolo. Infatti venne fondata nel 1911, quindi c'è anche un po' questa storia, no? Questi centri che erano le case del popolo, che poi nella storia diventano i primi bersagli delle violenze, degli attacchi squadristici, no? Negli anni 20, così, e poi però diciamo si ricostituiscono e rimangono dei centri di aggregazione, soprattutto nei centri piccoli come San Prospero, sono molto molto importanti. Restano ancora importanti, certo. Sì, e lì sì, naturalmente si potrà mangiare presso di loro, mangiare, bere, poi ci saranno anche i vari produttori, e ci sarà proprio una grande, grande festa ad iniziare dalle 18, quando verrà chiuso il borgo al traffico, e poi con questo stage che dicevo di danza, e poi alle 21 la grande festa. Io ho recuperato anche in questo caso un minutino di musica e facciamo uno stacco per così proporre un antipasto a chi sta ascoltando per quanto riguarda la serata di domani. A tra poco. Aggregazione importante per il sociale come può essere una casa del popolo, quindi da sabato 20 luglio San Prospero, Imola, si inizia alle ore 18 con un breve stage gratuito di balli staccati a cura di Giancarlo Battilani, che abbiamo ascoltato per un minutino di musica e per dare un'idea. Concerto e balli tradizionali alle ore 21, sempre con Giancarlo Battilani, che oltre che insegnare o portare a conoscenza questa realtà, è anche esecutore al violino, alla cornamusa, alla voce, e a dirigere questa serata di incontro con la musica a tema. Massimo Oppi alla chitarra, Maria Del Rico alla fisarmonica e Jacopo Alessandri all'ocarina. Sei ancora con noi? Spero di sì, Luisa. Okay. Sì, volevo dirvi che loro si chiamano L'Homme de Grain e mi hanno mandato delle frasi molto poetiche per descriversi. Loro dicono: siamo lucciole in una sera d'estate, cullate dal soffio del vento. Il nostro è un ballo luminoso, lontano, antico. È un ballo che proviene dalla terra, risale dalle crepe secche dei campi squamati attraverso il tempo, attraverso i secoli. Un mare di stelle danzanti, siamo lucciole in un campo di grano. E Boris Kovac al clarinetto basso, questo autore di tango balcanico. Dai, dai Luisa, mi autoinvito. Una volta nelle prossime edizioni verrò a farti un DJ set tra klezmer, tango balcanico, musiche da... Dai, sì, veramente bello. Mi pronoto, come dice mia mamma. Va bene, sei, dai. Sei pronotato. Ecco. Lui bravo bravo. Comunque, dopo questa divagazione però molto a tema con l'idea, certo, artistica di In mezzo scorre il fiume, la quinta edizione, riassumiamo: questa sera 19 luglio Sasso Leone, Agriturismo Manuela via Sillaro 7, Appennini a Palachi. Alle ore 17 l'incontro con partenza per chi vuole escursione per cavalli, pascoli e fiume. Alle 19 concerto dei Moonshine Brothers, alle 20:30 cena all'Agriturismo. Domani sabato 20 luglio San Prospero a Imola, folk e Megnapù, musica e danze come una volta con i L'Homme de Grain. Alle 18 breve stage gratuito di balli staccati a cura di Giancarlo Battilani, e a seguire alle 21 concerto e balli tradizionali con lo stesso Giancarlo Battilani e la formazione che vi abbiamo presentato in precedenza. In entrambi le serate c'è la possibilità della cena, ovviamente, quella non può mancare, e tanta tanta musica, incontro, cultura, e in un territorio che dà la possibilità a tutto ciò, direi In mezzo scorre il fiume, quinta edizione. E manca una cosa per prenotare o pronotare, come direbbe appunto, sì. Numeri di telefono per pronotare, esatto. Venerdì, cioè oggi per stasera, siete forse ancora in tempo a telefonare allo 0542 977 23 977 23. Sarebbe l'Agriturismo Manuela, lo trovate comunque se lo cercate, sì. Agriturismo Manuela Sasso Leone, via Sillaro 7, ma lo potete raggiungere comunque comodamente, c'è anche un comodo parcheggio. Venite fra cavalli, mucche e i fratelli Raffaello Stefanini, Bruno Stefanini, Gianni Stefanini, che formano i Moonshine Brothers. E questi sono su due zampe, non prima fra cavalli e sono mucche. Sono su due zampe, esatto. Non so se verranno a cavallo anche però loro. Però potrebbero venire a cavallo. Il fratello americano sicuramente penserà di venire a cavallo. Comunque, dai, sarete anche fra i nostri cowboys, certo, del territorio, quindi sarete ben accompagnati da animali e da musicisti. Sabato 20 luglio invece a San Prospero, in piazza e centro sociale, folk e Magnapù, musica e danza come una volta con il L'Homme de Grain. Io esatto, ti ringrazio... è vicino a Imola e c'è parcheggio anche lì, per cui arrivate per tempo così lo trovate. Io ti ringrazio tantissimo per questa co-conduzione e presentazione tra chiacchiere belle e contenuti altrettanto importanti. A presto allora, Luisa. Grazie a te, Willy, grazie buona mille giornata. A tutti gli ascoltatori. A te, buona giornata. Ciao. Ciao. Oia, come d'or d'amore in modo giuva, il tadanaccio, un planta nuovo tannasse. Oi, acma dor da moca te invocação. Oi, acma dor da more moda chuva. Ele tá dando chão, um planta novo tá nascer. Mas vida perguntou pra mim, enrolar. Perguntou pra mim, enrolada à volta, nega a resposta. Tem vergonha de amar, a mata sofre, da mata e vive de dor, de amar e vive de dor, de amor. Planta novo tanto. Oi, alma dor da morca tem vocação. Oi, alma dor da morca em moda chuva. Da nação, planta novo tanto. Mas vida perguntou pra mim. Enrolar. Perguntou pra mim, enrolada à volta, nega a resposta. Não tem vergonha de amar, mata sofre, da mata e vive de dor, de amar e vive de dor, de amor. De amor. Siamo partiti con il brano del buongiorno con musica dall'isola di Capoverde e procediamo con la formazione Cimentera, sempre dall'isola di Capoverde. Pochi secondi alla pubblicità, Dor de Amor, il brano che vi sto proponendo, pubblicità, e poi abbiamo parlato di venerdì, sabato e domenica, Piazza San Francesco estate, la curatela è di Ert per concludere il weekend di cui stiamo dando presentazione. A tra poco!